faccio un buco l'adesivo e niente, gli ho dato un'ispezione così per vedere dove andava a fare quell'interruttorino che c'era dietro e basta. E infatti non so quel pattino se magari l'hanno messo per l'hanno aggiunto qualcosa, dai, non lo so. E quando sei tipo in 18 in alta potenza ti sento più chiaro, però sei sempre un po' lontano. Prova 1, 2, 3, prova in FM, brecco, brecco. Si sente il bip quando schiacci il micro. Brecco, brecco, prova 1, 2, 3, prova. Sì, adesso ti sento un pochino meglio, però come hai detto tu è lontana, deve essere che chissà cosa l'hanno combinato. Dalla Sicilia l'ho presa quella radio. Sì, ti ho detto, la voce adesso è comprensibile, però è sempre lontana. Va bene, KK Roger, ok, già non venire. Se no me la metti sulla incudine con quella matta che c'hai tu, però vai, no ma no. Capito, ho capito, andà bene, dai, come c'hai la controlli, già non ce n'è di fretta, bravissimo, non ti preoccupare, andà bene, fammi sapere se è buona quella pozione. Guarda che hai detto che è perfetto. Beh, anite casino, vista, beh, c'è una tipa, c'è, non lo so, magari è un radiamatore, una radiamatore, o non lo so chi è, non lo so se la senti. Ok, andiamo a vedere, dai. Ok, perfetto, dai. Magari ci sentiamo quando la sistemi. Quando la sistemi già funzionerà più bene. Comunque già ce l'ho accesa le radio, dai. Ho capito, andiamo a vedere. Perché, boh, non lo so, dovrebbe essere come ti posso dire, se funziona bene va bene, dai. Prova radio 1, 2, 3, prova brecco, brecco. Ok, a dopo. Ok, perfetto, gaffa. A dopo. Chi c'era? Avanti, brecco, brecco.